Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Lalo Savio mi condusse di porta in porta per tutto il piano terra e il primo piano, e poi ancora il piano terra, dove avevamo dimenticato qualche famiglia. Della morte del bambino nessuno parlava, e mi resi conto che laggiù non sopravviveva nessuna possibilità di emozione. C'era buio e nient'altro. Silenzio, rapidi ricordi di un'altra vita, una vita più dolce, nient'altro. Neppure Lalo Savio parlava. Spingeva una porta con garbo. «C'è permesso!» Qualcuno rispondeva «Trasit!» oppure non rispondeva affatto. Allora lei entrava guardandosi intorno con i suoi occhietti pungenti. E immediatamente 8, 10, 15 persone uscivano dall'ombra. Chi si levava da un letto come un morto che stia fantasticando, chi inquadrava per un attimo la sua testa selvaggia al di sopra di un tramezzo di legno. Donne, che di donna non avevano più altro che una sottana e dei capelli, piuttosto simili a una crosta di polvere che a una capigliatura, si accostavano silenziose, spingendo i bambini avanti, come se quell'infanzia maledetta potesse proteggerle o rincuorarle. Gli uomini, invece, rimanevano più indietro, come vergognandosi. Qualcuno mi guardava le scarpe, le mani, non osando però levarmi gli occhi in viso. In molte famiglie, come già in quella della De Angelis, c'era un tale che si presentava come malato mentale. «Voi che lavoro fate?» domandavo. E lui, dopo un'esitazione, cercando di sorridere, «Malato mentale!» «Vedete!» gridavano con una specie di trionfo le donne. «Gesù Cristo ci vuole provare! A noi chi ci fa bene, Cristo glielo rende!» E spiavano Lalo Savio e me, ansiose di sentire un accenno ai pacchi. Io guardavo soprattutto i ragazzi e capivo che essi potessero morire d'improvviso, correndo come scarpatella. Questa infanzia non aveva d'infantile che gli anni. Per il resto erano piccoli uomini e donne, già a conoscenza di tutto, il principio come la fine delle cose, già consunti dai vizi, dall'ozio, dalla miseria più insostenibile, malati nel corpo e stravolti nell'animo, con sorrisi corrotti o ebeti, furbi e desolati nello stesso tempo. «Il 90%, mi disse Lalo Savio, sono già tubercolotici o disposti alla tubercolosi, rachitici o infetti da sifilide, come i padri e le madri. Assistono normalmente all'accoppiamento dei genitori e lo ripetono per gioco. Qui non esiste altro gioco, poi, se si escludono le sassate. Voglio farvi vedere una creatura», disse. Mi condusse verso il fondo del corridoio, dove da un po' di luce verde che traspariva da una fessura si capiva che a Napoli era scesa la sera. C'era una porta da cui non veniva un suono, una voce. Lalo Savio bussò appena e poi entrò senza attendere risposta come chi è di casa. Era una vasta stanza pulita e deserta tra la grotta e il tempio. Non fosse stata la presenza di una minuscola lampada, la cui luce, collocata molto in alto, dava più fastidio che gioia, quel locale avrebbe fatto pensare a un'antica e dimenticata rovina. C'era, più forte e tetro che altrove, un odore di umido, filtrato da cose in corruzione. Una donna ancora giovane e dall'aspetto estatico ci venne incontro. «Come sta, nunzia vostra?» chiese Lalo Savio. «Varita». Ci accompagnò una culla ricavata da una cassetta di Coca-Cola, che appariva piccola e miserabile, sul fondo di una delle solite solenni finestre ermeticamente sbarrate. In quel lettino, privo di biancheria, su un cuscino molto piccolo, sotto una giacca da uomo incrostata e dura, riposava una neonata dal viso bizzarremente gentile e come adulto. Un viso delicato, bianchissimo, illuminato da due occhi dove brillava l'azzurro della sera, intelligenti e dolci, che si muovevano in qua e in là, tutto osservando con un'attenzione superiore a quella che può concepire un bambino di pochi mesi. Vedendoci, si posarono su noi, su me, salirono alla fronte, si girarono, cercarono la madre come interrogando. La madre alzò con una mano la giacca e vedemmo un corpicino della lunghezza di qualche palmo, perfettamente scheletrito. Le ossa erano sottili come matite, i piedi tutti grinze, minuscoli come le zampine di un uccello. Al contatto dell'aria fredda la bambina li trasse a sé, lentamente. La madre lasciò ricadere la giacca coperta. Non mi ero ingannata quando, vedendola, avevo sentito che Nunzia Faiella conosceva già da qualche tempo la vita e vedeva e capiva tutto senza poter però parlare. «Questa creatura tiene 2 anni», mi disse la Lo Savio sottovoce. «Per i visceri non è più cresciuta». «Nunzia Bella», la chiamò accoratamente. Sentendo queste parole, debolmente quell'esserino sorrise. «Una volta la portai fuori, dal medico», disse la giovane parlando con una voce grossa, maschile, tra esaltata e rassegnata. E così capì che solo una volta nella sua esistenza Nunzia Faiella aveva veduto la luce del sole, forse un pallido sole d'inverno. Guardava l'aria, il sole, era stupariata. Anche adesso Nunzia Faiella era meravigliata. I suoi occhi dolci scrutavano di volta in volta il soffitto altissimo, le pareti verdastre, si ritraevano e tornavano continuamente sul raggio della lampada, che forse le ricordava qualcosa. Non vi era in essi tristezza e neppure dolore, ma il senso di un'attesa, di una pena scontata in silenzio, con la sola vita di questa attesa, di una cosa che poteva venire di là da quei muri immensi, da quell'alta finestra cieca, da quel buio, quel tanfo, quel sentore di morte. «Nunzia!» chiamò ancora la Lo Savio, curvandosi sulla cassetta e parlando affettuosamente a quell'esserino. «Che fai? Vuoi lasciare a mamma tua? Vuoi andare a fare Natale con Gesù Bambino?» Allora accadde una cosa che non mi sarei mai aspettata. La bambina si volse a guardare la madre, con un sorriso incerto, che a un tratto divenne una smorfia, e poi dette in un pianto che sembrava venisse dall'interno di un mobile, tanto era debole, soffocato, leggero, come chi piange in sé, senza più forza né speranza di essere udito. Uscendo da quella stanza, fui urtata violentemente da 2 donne che avevano saputo dell'arrivo di un gruppo di giornalisti e correvano a fare un reclamo per un'infamità che sopportavano da tempo. Era stato chiuso apposta, dissero, uno dei 2 cessi del terraneo, ed esse, che erano vicine di casa, dovevano ogni giorno fare 300 metri di strada per andare a vuotare i vasi nel gabinetto all'altro capo del corridoio dove c'è l'ambulatorio. Dall'ira passarono subito al pianto. Erano 2 tigri che avevano patito troppo nella loro vita perché non ne venissero fuori lamenti umani. Si misero a parlare dei loro uomini disoccupati, privi di biancheria, di scarpe, di tutto, dei ragazzi che le straziavano con la loro disobbedienza. Piangevano e si aggrappavano a noi, volevano mostrarci le loro case. Impossibile non accontentarle. In una di queste, l'assistente del dottor De Luca, un giovanottino dall'aria fredda e annoiata, vestita in modo trascurato, era venuto a visitare un vecchio la cui fine appariva imminente e che era zio di una delle 2 donne, Assuntina. La stanza era piena di gente, larve, che pareva stessero odorando. Non vedevo il morente, nascosto dalla folla e dal dottore, ma la mia attenzione fu attratta da un'altra persona, non potrei dire un uomo, che in piedi dietro al dottore lo toccava di tanto in tanto sulla spalla. Era una creatura di età indefinibile, disfatta, strana, con un che di mite e di terribile insieme. I suoi occhi erano protetti da grossi occhiali e una delle lenti appariva più doppia dell'altra. Aveva una frangetta di capelli grigi sulla fronte che si infilavano sotto la lente, dando una maggiore ambiguità alle pupille. Con la mano sinistra, mentre con l'altra toccava il dottore, si grattava continuamente con una specie di tic il petto, tentando di aprirsi la camicia. Finalmente il dottore si voltò. «Tu che vuoi?» disse bruscamente. «Bismuto! Passa all'ambulatorio più tardi!» «Sì, sì, sì!» «E parla buono!» disse con violenza una donnetta uscendo da dietro una tenda. Sembrava una di quelle lunghe cagne piene di mammelle che si trascinano con una solenne mestizia da un rifiuto all'altro. I suoi capelli erano ancora dorati, ma il viso terroso, gli occhi spenti, la bocca priva di denti. Le spalle strette, infantili, contrastavano con la gran curva del ventre sulle corte gambe. Al dito portava l'anello. «Il dottore capisce», disse il malato umilmente. Un minuto dopo, il dottore era uscito e le larve erano rientrate tutte nei loro buchi. In questo caso i quattro recinti in cui la stanza, molto grande, era divisa per mezzo di casse, coperte, vecchi lenzuoli tirati lungo due canne e anche fogli di giornale, il tutto illuminato da una lampada d'olio. Assuntina stava porgendo una medicina allo zio, che sorrideva rigidamente, assorto, quando, proprio da dietro questo giaciglio, dove si alzava un tramezzo, avvertì un respiro ansioso, soffocato, beato. Sporsi appena la testa e vidi, a piedi di un altro letto, il sifilitico e sua moglie. Lui era seduto sulla sponda. Lei gli stava in ginocchio davanti e con la lingua fuori della bocca gli inumidiva una mano. All'infelice erano caduti gli occhiali. Guardava in alto, come cieco, e tutto il suo corpo tremava. Cominciava la notte ai granili e la città involontaria si apprestava a consumare i suoi pochi beni in una febbre che dura fino al mattino seguente, ora in cui ricominciano i lamenti, la sorpresa, il lutto, l'inerte orrore di vivere. Il silenzio della ragione. La sera scende sulle colline. La sera del 19 giugno, sera per modo di dire, essendo il cielo chiarissimo e il sole ancora fisso a mezzo il mare con uno sguardo intento, presi un tram della linea 3 che percorre tutta la riviera di Chiaia e termina a Mergellina, sedetti in un angolo vicino a una donna senza naso che portava in grembo una grossa pianta, e mi misi a pensare con quali parole avrei giustificato la mia visita a Luigi Compagnone, impiegato all'ufficio prosa di Radio Napoli, che non vedevo da molto tempo e dal quale appunto stavo andando. Avevo bisogno di alcune informazioni sui 4 o 5 scrittori giovani di Napoli, Prisco, Rea, Incoronato e La Capria, che aveva il suo primo romanzo in via di stampa presso un editore del Nord. Non escludevo Pratolini, benché l'autore di Cronache di poveri amanti non potesse dirsi napoletano né alle prime armi, ma avevo saputo che era sul punto, se non già lo aveva fatto, di lasciare definitivamente la città. Dal Compagnone, che per un certo tempo in casa li aveva avuti tutti, speravo qualche notizia più particolare, maliziosa, di quelle che sollevano tanto il tono di un articolo. «Che cosa fanno i giovani scrittori di Napoli?» era il titolo del mio articolo, destinato a un settimanale illustrato. Non si poteva dire che quel tram corresse. Andava con un ritmo così lento, benché a Piazza Vittoria, quando ero salita, si potesse dire normale, da favorire il sospetto che il conducente si fosse addormentato, oppure, con un mezzo occhio aperto, giacesse ferito sul suo seggiolino. In realtà, quell'uomo dalla giubba sbiadita e priva di bottoni sedeva regolarmente alla guida, ma rallentava sempre più l'andatura a causa delle cattive condizioni della strada che appariva addirittura sconvolta. Sporgendomi dal finestrino, vidi, per l'estensione di un chilometro e più, quanto è lunga la riviera di Chiaia, un vero formicolio di uomini seminudi, Grigio il dorso, grigi i calzoncini, grigia la testa e le mani con cui lavoravano a rompere le pietre. I basoli della strada erano tutti smossi, conferendole l'aspetto di un torrente in piena. Le torbide acque, precipitose e oblique, improvvisamente drizzate e pietrificate. Molte strade, quando certi lavori sono in corso, assumono questa espressione agitata e squallida. Ma qui si avvertiva qualcosa di diverso, che in breve costringeva a rifiutare per una definizione i due aggettivi nominati. No, non si poteva parlare né di agitato né di squallido. Questa strada, piuttosto, rimaneva ridente e terribile, come appunto l'espressione di intelligenza e bontà che appare talora sul viso ai defunti. Era una strada defunta, così almeno la definì nel mio cuore, sperando poterle trovare, in seguito, un attributo meno intenso e irrazionale, cosa che invece non fu possibile. Ritrovavo a destra del percorso le medesime case dell'Ottocento e i palazzi del 6-700 che un tempo si erano sostituiti lentamente alle povere case dei pescatori, numerose due secoli fa, in quella zona urtata direttamente dal mare. Nulla di più grazioso e ridente, anche dopo i selvaggi anni 40-45. La pioggia di forellini che aveva macchiato le facciate dopo i mitragliamenti e le grandi e solenni lacerazioni aperte dalle bombe avevano per qualche tempo conferito una certa animazione a quelle mura, in perfetto accordo con gli elementi umani formicolanti alla base. Quel qualcosa di nero e colorato, quell'interminabile nastro di plebe che si agitava perennemente alla radice delle case, aveva emesso, per la prima volta, in quegli anni successivi alla tempesta, un rumore nuovo, imprevedibile, incantato, pari al fruscio della risacca sull'arena dopo l'uragano. Vi era dell'inquietudine e soprattutto della speranza in quel sordo, continuo rumore. Ecco perché i vetri delle case avevano brillato e le facciate rosa e gialle erano parse battute da un altro sole, vivide e rinnovate. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.